nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sì, di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, però oggi solo Mauro Meazza. Allora, buongiorno, perché Deborah Rosciani ancora è in ferie, ma come già dicevo ieri, stigmatizzeremo questo comportamento subito all'ufficio personale, non appena sarà conclusa questa trasmissione, che oggi, vi posso anticipare, è parecchio importante, perché parliamo di pagamenti, nuove modalità di pagamento, come si può pagare non solo con il contante, ma con le carte di credito, con i bancomat, con il vostro telefono cellulare, con lo smartphone, da internet, con l'home banking. Insomma, c'è una evoluzione costante in tutto il settore. C'era una volta il borsellino, ma è sempre più un oggetto che diventa desueto. Ne parleremo con degli ospiti importanti. Innanzitutto in studio con me e chi ci segue via Facebook sulla nostra pagina 2 di Denari Radio 24 può già vedere Claudia Segre. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Benvenuta dottoressa Segre, che è presidente della Global Thinking Foundation, che fa parte anche della Fondazione per l'Educazione Finanziaria dell'ABI. Oh, perché parliamo proprio oggi di pagamenti? Perché da oggi è possibile per molte banche, non per tutte, fare il cosiddetto bonifico lampo, cioè voi date l'ordine di pagamento e dopo 10 secondi subito arriva il vostro bonifico al destinatario. È uno strumento innovativo che ha tutta una sua origine europea. Ne parleremo in dettaglio. Come tutte le cose nuove, è utile per certi versi, va valutata per certi altri. Ma prima di tutto questo c'è una notizia importante. Un giorno qualunque mi ricorderò di dimenticarti dentro un cestino. Perché dimenticarti dentro un cestino? Perché parliamo ancora dell'Atari, l'Atari che è un po' la protagonista di queste settimane. Allora, come vi abbiamo già detto a Due di Denari, come avete già potuto leggere sul Sole 24 Ore più volte, ci sono dei comuni, e non sono pochi, che hanno calcolato male la Tari, cioè la tassa rifiuti, quella che paghiamo appunto per lo smaltimento dei rifiuti. L'hanno calcolata male perché, come è stato spiegato poi dal Ministero dell'Economia, non andava calcolata la parte variabile anche sulle pertinenze, in italiano. Siccome c'è una parte variabile che è calcolata sul nucleo familiare, componente del nucleo familiare, e poi uno può avere accanto all'appartamento dove abita il garage, la cantina, il box, il posto auto, insomma le pertinenze, ecco, la quota variabile non va calcolata sulle pertinenze, perché ovviamente di solito non si abita nel garage o nel box o nel posto auto. Molti comuni però hanno sbagliato. Noi abbiamo avuto anche Antonio De Caro, il presidente dell'ANCI, l'associazione dei comuni, ci ha assicurato che farà, l'ANCI stessa si farà promotrice di una campagna di restituzione automatica, ma ieri è stata diffusa la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta le istruzioni generali per questa cosa. Ne parleremo diffusamente a effetto giorno alle 13, ne parleranno i colleghi ad effetto giorno alle 13, quindi restate collegati o segnatevelo per ascoltarlo poi in podcast se in quel momento non potete sentire la radio. Attenzione, perché nella circolare molto breve si dice una cosa importante, che l'istanza, cioè la richiesta per farsi dare i soldi, non richiede formalità, quindi anche carta libera, però deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso, nonché i dati identificativi della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della Tari. Quindi c'è una serie di richieste che va rispettata. Se non si rispettano queste richieste, si presume che poi il comune faccia difficoltà nel rimborso. Quindi fate attenzione a questo e vi do appuntamento, vi rimando poi ad effetto giorno per tutti gli approfondimenti. Adesso invece partiamo con l'argomento della giornata. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking. Abbiamo recuperato Speedy Gonzales, cioè Giulia Lauricella e Marco Lombardo, che sono, devo dire, molto nati dopo questa canzone, però sono andati a ripescarla, perché parliamo appunto del bonifico lampo. Allora, chiamo subito in causa Claudia Segre per capire questa modalità nuova che discende peraltro da una complicata, complicato recepimento di direttive europee. Se ci riassume come può funzionare e cosa potrebbe cambiare nelle nostre abitudini. Ma sicuramente è un'iniziativa europea, comunitaria, che è stata sollecitata anche dalla BCE e poi è andata in applicazione su 36 paesi. La cosa interessante è che parte su non solo sui paesi che hanno adottato l'euro, ma anche paesi che non hanno adottato l'euro, ma che regolano in euro. Quindi un interesse diffuso per questa pratica assolutamente digitale che cambia la maniera di rapportarsi di fronte all'esigenza di pagamenti istantanei e quindi immediati. Questo può risolvere diverse tipologie di problemi che possono sorgere per non solo dal punto di vista del business e quindi dell'attività produttiva, ma anche delle persone fisiche. E l'unico problema, come al solito, è quello del costo. Quindi ci sarà un costo aggiuntivo e su questo è l'argomento di discussione principale. Allora, questo tipo di bonifico lampo, naturalmente, se avete domande, come sempre, come tutti i giorni, qui a Due di Denari, potete scriverci, telefonarci per intervenire in diretta, mandarci delle email. I numeri sono sempre gli stessi, 800240024, se volete intervenire in diretta con le vostre domande, per i vostri SMS o, se preferite, WhatsApp, 349-238-6666 e infine la nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it. Come ricordo sempre, 2 di denari è scritto con le lettere 2 di denari. Allora, sì, ci sono dei costi, diceva dottoressa Segre, perché questo bonifico che può avvenire in 10 secondi, che può avvenire anche verso paesi che non sono dell'euro, quindi ad esempio ho il figlio a Londra e ha bisogno di contante, di liquido, non di contante, ha bisogno di una disponibilità economica, posso farlo istantaneamente, dopo 10 secondi lui avrà questa disponibilità sul suo conto corrente, anche se, come sappiamo, Londra non è parte dell'eurozona, cioè non adotta l'euro. Però ci sono dei costi che vanno preventivati, che sono variabili per le diverse banche che già lanciano questo servizio. Sì, normalmente nelle banche il bonifico che uno fa allo sportello ha un costo superiore di quello che viene fatto via digitale, quindi con quello che si chiama il banking online, quindi col sistema via internet. E quindi da questo punto di vista anche il bonifico istantaneo permarrà questo tipo di differenza, ma dovrebbe essere ovviamente un prezzo, per così dire, calmierato. Il problema è che è discrezionale per le banche, le istituzioni finanziare evidentemente l'applicazione della commissione. E quindi vedremo poi quanto questo prezzo sarà calmierato dal punto di vista del consumatore o dal punto di vista dell'istituto. Ma allora, subito, visto che abbiamo chiamato in causa le banche, abbiamo in collegamento Rita Camporeale, che è il responsabile dell'ufficio sistemi e servizi di pagamento dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'ABI appunto. Allora, benvenuta dottoressa Camporeale innanzitutto. Buongiorno. Buongiorno. So che lei è fuori Italia proprio per regolare anche le vicende che stanno interessando le banche e la Commissione Europea, dico bene? O rivelo un segreto che non doveva essere rivelato? No. Oggi sono esattamente alla riunione del board dell'organismo europeo che ha definito le regole per il bonifico istantaneo a livello SEPA. E infatti noi non possiamo. Quindi siamo proprio qui a testimoniare l'avvio delle piattaforme e le prime transazioni che stanno avvenendo regolarmente. Ah, ma allora guardi, visto che siamo sul pezzo, come si dice nel nostro gergo, come sta andando? Avete già visto una interesse, punti critici, cose che vi piacciono o non vi piacciono dal vostro punto di osservazione? Questo è il primo giorno, certo. E le prime transazioni devo dire che appunto anche dai valori non sembrano le solite transazioni da test da un euro, ma ci sono scambi reali, quindi bonifici effettivi che nel giro di pochissimi secondi arrivano al beneficiario e sono che ha la disponibilità dei fondi. Ecco, questa cosa, ricordavamo prima all'inizio della trasmissione, deriva da una complessa applicazione dei pagamenti nell'area euro, in gergo poi in sigla, anzi si chiama SEPA, Single Europe Payments Area, ma è un'iniziativa che deriva proprio dall'Unione Europea, cioè l'abbiamo poi recepita in Italia con una normativa apposita e in forza di questo abbiamo potuto dare il via oggi a questi bonifici lampo o istantanei, come li vogliamo chiamare. Sì, diciamo che il progetto SEPA nasce con il nuovo millennio. Sì. Nel 2014 siamo arrivati ad avere queste regole armonizzate per effettuare i pagamenti, quindi già i bonifici normalmente oggi li facciamo secondo le regole della SEPA e anche gli addebiti diretti. Oggi si aggiunge una possibilità in più, quella di fare dei bonifici sempre con le stesse regole armonizzate a livello di tutta l'area SEPA, quindi 34 paesi, esattamente come oggi già facciamo i bonifici su 34 paesi con le stesse regole, ma dei bonifici molto più rapidi. Chiaramente quando parlo di 34 paesi non vuol dire che oggi tutte le banche di tutti i 34 paesi offrono un prodotto simile, ma che partendo oggi nel giro di, riteniamo, breve tempo, il prodotto si espanderà in tutta l'area. Volevo ricordare che per adesso c'è un limite massimo di trasferimento del denaro con questo tipo di bonifico da 10 secondi, questo bonifico la USA in Bolt, perché al massimo posso trasferire 15.000 euro, è corretto? Sì. Hanno, ecco, ma dovrebbe rialzarsi, potrà rialzarsi, allora, in futuro. Intanto una precisazione, questo è un limite fissato tra le banche, in realtà ogni banca poi ha la facoltà di decidere come offrire al cliente questo prodotto, quindi potrebbe eventualmente avere anche dei limiti più bassi. Questo perché, appunto, essendo una elaborazione rapidissima e comunque soggetta a tutti quei controlli che normalmente vengono effettuati sui pagamenti, dai controlli antiriciclaggio ai controlli antifrode, la banca dovrà monitorare il rischio nell'offerta del prodotto. Questo limite è stato fissato a 15.000 euro proprio per ragioni di prudenza all'avvio, ed è verosimile che dopo un anno dall'avvio di oggi potrà essere rialzato. Allora, già ci scrivono gli ascoltatori, un ascoltatore con WhatsApp ci chiede: ma posso farlo anche da casa, online? Direi di più, anche dal telefono cellulare, dallo smartphone, è corretto? Sì, diciamo che le banche offriranno sui vari canali, quindi sul telefonino, su internet, questo prodotto esattamente come è possibile fare un bonifico con mobile banking o home banking. Una cosa che stavamo sollevando prima, quella dei costi, questo è un servizio per cui verrà richiesto un costo aggiuntivo. Vedo che circolano cifre un po' diverse, si va dal 2,50 euro per un bonifico di questo tipo, oppure qualche banca ha scelto, parlo di banche italiane, di istituti italiani, ha scelto di parametrare il compenso, cioè quello che il cliente deve pagare, all'importo che viene trasferito, quindi in ragione di qualche centesimo o qualche decina di centesimi ogni migliaio di euro fino a certe soglie. Guardo anche con attenzione il viso e le espressioni di Claudia Segre, perché non vorrei dire delle cose scorrette e poi giustamente l'associazione bancaria Rita Camporeale mi sgriderebbe, però mi sembra fin qui di essere andato bene. Allora, guardi, io in realtà la sgrido, perché all'associazione ecco, non si può chiedere diciamo, noi come associazione non rileviamo i prezzi del certo mercato, ogni banca è libera di offrire il prodotto con il modello di tariffazione e il livello di tariffazione che ritiene più opportuno. Questo è il gioco della concorrenza. Come lei, quello che è assolutamente corretto è che ci sono diversi modelli di tariffazione, quindi appunto o una tariffa fissa o una tariffa che può aumentare all'aumentare dell'importo, proprio perché le banche inseriscono questo prodotto all'interno di un più ampio panorama, anche in relazione a tutto il resto della loro offerta. Certo. E conseguentemente ognuna si regola come meglio ritiene. Certo, qualcuna potrebbe persino offrirlo gratuitamente se questo facesse parte della sua strategia commerciale. Naturalmente poi magari ci saranno altri costi che verranno richiesti al correntista, mi immagino. Adesso non... Ma io, prego. Diciamo, un servizio chiaramente ha un costo e conseguentemente ha un prezzo. possiamo anche immaginare che se noi siamo abituati a mandare una lettera per posta ordinaria costa un tot, se facciamo una posta urgente avrà un costo diverso. Ma questo non vuol dire che appunto una banca possa anche scegliere di tariffarlo diversamente, di offrirlo, come spesso succede, all'interno di un pacchetto un certo numero di operazioni a un costo ridotto, addirittura gratuitamente, e poi modulare la propria offerta e i propri prezzi come meglio ritiene. Certo, una cosa che suscita subito curiosità tra gli ascoltatori è che questo tipo di bonifico non è annullabile, cioè una sorta di bonifico irreversibile, quindi se ci fosse qualche errore non è possibile tornare indietro? Dottoressa, allora diciamo che dobbiamo immaginare che è un bonifico che ha l'istantaneità di un click sul telefonino. Sì. Quando abbiamo fatto click l'email è partita. Sì. Ora, quindi è esattamente la stessa cosa. Chiaramente possiamo revocarlo, cioè possiamo richiedere lo storno del pagamento solo dopo la sua effettuazione. Certo. Però chiaramente lì ci vorrà il beneficiario che concorda nel restituirci i soldi. Le faccio un'ultima domanda, poi dovremo dare tra pochissimo anche la linea ai mercati, alle borse, per vedere come vanno le borse, e so che lei deve tornare appunto al monitoraggio di questo primo giorno del bonifico istantaneo, quindi non la tratterremo ulteriormente. E la domanda è, lei segnalava che non state vedendo delle transazioni di prova da un euro o da pochi euro, ma proprio delle transazioni vere. Questo significa che in qualche modo c'era un bisogno di questo tipo di servizio, di questo tipo di strumento? Ma io credo che sia da inquadrare un po' in tutto il processo che stiamo vivendo e che è esperienza quotidiana di tutti, dell'accelerazione del nostro apprendimento e delle nostre azioni. Noi siamo abituati ormai a essere sempre collegati a internet, sempre raggiungibili con il telefonino, eccetera. Il bonifico istantaneo si inquadra in questo mondo, quindi sempre più veloce e sicuramente risponde a delle esigenze che sentivo appunto nell'intervento che mi ha preceduto. Sì, della dottoressa Segre. Citare alcuni esempi e concordo perfettamente. Ci sono dei casi sicuramente che possono trarre beneficio da questo prodotto, ma noi crediamo anche che via via che i clienti si abitueranno a utilizzarlo ci saranno più casi d'uso e più occasioni per utilizzarlo. Allora, la ringrazio, innanzitutto le auguro buon lavoro. Ricordo, e poi ne parleremo anche dopo l'interruzione per i mercati, che voi sarete, insieme anche alla Global Thinking Foundation della dottoressa Segre, a questo Salone dei Pagamenti che comincia proprio domani qui a Milano, al MICO, al Centro Milano Congressi, un salone dove appunto si presenteranno tutte le nuove modalità di pagamento, di cui il bonifico istantaneo è uno di questi. Allora, grazie dottoressa Camporeale, Due di Denari torna tra pochissimo, ora i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. La grana non lo sai quanto mi manca, da quando mi son fatto un conto in banca. Quanto riesce ad essere reale tutta questa grana virtuale? Sì, grana virtuale, ma poi grana reale, perché appunto stiamo parlando di pagamenti elettronici e di questo bonifico lampo che proprio da oggi debutta. Ne stiamo parlando con Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, attiva anche per l'educazione finanziaria, specialmente di alcune fasce, giovani, donne, cioè categorie che magari potrebbero essere più soggette a difficoltà nel rapporto con il denaro o e anche con i bonifici istantanei. E anche con i bonifici istantanei, perché oggi la notizia è proprio quella del bonifico istantaneo. Federico da Milano ci pone una domanda cruciale. Buongiorno Federico. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda è la seguente. In un mondo dove ormai i pagamenti sono velocissimi, esiste già Jiffy, che è un servizio offerto da SIA, che sì, ormai è anche particolarmente diffuso. Questo bonifico istantaneo quindi potrebbe sostanzialmente andare a sostituire il servizio. Mi chiedo, sarebbe più vantaggioso anche in termini di disponibilità, di rapidità e semplicità? Potrebbe davvero essere un'alternativa reale? Ma qui è il caso proprio di dire la ringrazio della domanda. Claudia Segre. Sì, allora diciamo che le piattaforme anche come Jiffy, che girano praticamente IBAN su IBAN, sono del tutto simili a questo bonifico istantaneo. Il problema, come si diceva prima, è l'impossibilità di cancellare, come normalmente si può fare in un bonifico, per il quale solitamente c'è una scadenza oraria entro la quale si può revocare, modificare il bonifico e reinserire, prima che le procedure notturne, diciamo a seconda delle gestioni delle varie banche, processino definitivamente il bonifico. Quindi sicuramente questo è un bonifico destinato a un dato certo riguardante l'operazione che si vuole fare, perché è molto difficile poi tornare indietro. Grazie Claudia. Allora abbiamo in collegamento, visto che abbiamo parlato delle procedure complessive in uso nel mondo bancario e visto anche che sono giorni, ma direi settimane, ma direi quasi mesi di difficoltà per le banche italiane, di tormenti poi per noi risparmiatori, abbiamo in collegamento Gianfranco Torriero, che è vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana. Buongiorno dottor Torriero, grazie. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto una cosa sul bonifico lampo e sui nuovi metodi di pagamento. Insomma, il mondo bancario sta accelerando, in qualche modo sta cercando di tenere il passo con questa evoluzione e anche, per usare una parola che adesso va di moda, disintermediazione, cioè il cliente è sempre più autonomo nel disporre alcune modalità di intervento. E a che punto siamo anche in Italia rispetto ad altri paesi? Come siamo posizionati, dottor Torriero? Allora, sicuramente siamo in una piena fase di innovazione che ha caratteristiche diverse rispetto a quelle precedenti. Normalmente l'innovazione era guardata soprattutto nell'ottica della razionalizzazione dei processi produttivi, quindi veniva vista più con una funzione di efficientamento. Oggi l'innovazione diventa più business, diventa più affari e potenzialmente nuovi affari che si possono generare. Sostanzialmente, per quanto riguarda proprio il mondo bancario, sia nazionale che europeo, noi abbiamo che l'innovazione va a impattare direttamente le modalità con cui il cliente entra in contatto con la banca e anche come utilizza i nuovi prodotti e servizi. Quindi ci sono due ottiche che tra loro si combinano e diventano elementi importanti. L'esempio tra tutti, appunto, i nuovi bonifici istantanei o appunto i nuovi pagamenti istantanei o anche per quanto riguarda le tante nuove innovazioni che vedono l'utilizzo dei nuovi strumenti, diciamo, collegati con lo smartphone o prodotti similari. Quindi c'è una nuova modalità, non c'è più l'innovazione che passa per la filiale fisica, ma una modalità di contatto che viene scelta dal cliente e anche lo stesso prodotto e servizio viene scelto e l'esperienza diretta che ne fa il cliente probabilmente crea le condizioni per ulteriore innovazione. Quindi siamo veramente in una situazione di bank revolution, quindi dove si può eliminare la R diventa evolution. Tra l'altro proprio di questo, appunto, come ricordavamo prima della interruzione per i mercati, dicevamo si occuperà questa manifestazione che si apre domani a Milano, durerà 3 giorni ed è il salone dei pagamenti Payvolution. Qui è stato fatto un altro gioco di parole possibile, è un evento organizzato appunto da Abiservizi dedicato adeguato a tutte queste evoluzioni dei pagamenti. È un evento aperto, cioè i cittadini possono recarsi al centro congressi MiCo di Milano e vedere appunto queste tendenze emergenti nei vari sistemi di pagamento, quelle a cui faceva cenno anche lei, dottor Toriero. Ecco, però io non posso esimermi, come si dice, come dicono quelli bravi, dal chiederle invece un giudizio più complessivo sul momento delle banche italiane. Non le chiedo di intervenire su Cari Genova o su Creval o su MPS, ma le chiedo proprio qual è lo stato di salute. Questi crediti deteriorati, o NPL se vogliamo chiamarli in sigla, insomma, sono un tormento vero. Ogni poco tornano a galla dei problemi, cambia magari l'istituto che viene così messo in difficoltà, ma sembra che questa cosa non si riesca a risolvere. Qual è lo stato della situazione in questo momento? Ma in realtà la nostra visione è leggermente diversa, cioè nel senso che sicuramente noi abbiamo attraversato, a seguito della grande crisi prima finanziaria e poi economica, un forte incremento sia delle sofferenze che dei crediti deteriorati. Ormai da diversi mesi c'è una riduzione significativa. Nel corso degli ultimi 8 mesi addirittura l'ammontare delle sofferenze nette è diminuito di circa un quarto, quindi c'è un segnale fortissimo di riduzione delle sofferenze, c'è un segnale fortissimo anche della minore entrata in sofferenza dei crediti, tant'è che siamo ritornati su valori comparabili al periodo pre-crisi, precedenti a quelli che si registravamo nel 2006-2007. Quindi ci sono delle tendenze molto positive sotto questo profilo, tant'è che proprio nei giorni scorsi abbiamo dato un'indicazione che prevediamo una discesa sicuramente sotto il 10% del famoso indicatore crediti deteriorati netti su impieghi, che dovrebbe scendere su valori sensibilmente inferiori al 10%. Quindi c'è una tendenza al miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la qualità del credito. Questo dipende in primo luogo perché è cambiata l'intonazione del ciclo economico in Italia. Siamo ormai da più di 2 anni in un ciclo economico positivo, le previsioni dell'andamento del PIL in Italia sono previste ulteriormente al rialzo, quindi c'è sicuramente un clima nettamente positivo rispetto a quello che avevamo sperimentato fino a qualche tempo fa. Penso continuare con una crescita del PIL e anzi addirittura rafforzare questa situazione è sicuramente un elemento importante. Quindi diciamo che lei vede dal suo punto di osservazione, chiaramente stiamo parlando dell'associazione, non stiamo parlando, lo ripeto, lo chiarisco, non stiamo parlando di singoli istituti, di singole banche, ma vede nel complesso una situazione migliore rispetto a quella che avevamo qualche tempo fa, soltanto un anno fa. Il miglioramento. Ecco, anche però il sospetto dell'uomo della strada, cioè di Mauro Meazza, insomma, per dirla molto chiaramente, è che le banche siano però anche costantemente pressate da mutamenti regolatori, da regole che possono arrivare dalle istituzioni europee, ma anche da Basilea, e che spesso questi interventi regolatori siano un pochino non rispettosi magari della tradizione, del tipo di economia e di ruolo che le banche svolgono in Italia, e magari più generose invece nei confronti di altri paesi. Non voglio dire che sono più generose con la Germania, perché sarebbe una semplificazione eccessiva, però insomma che le nostre banche si trovino spesso un po' in difficoltà con questi mutamenti di regole. Beh, diciamo che innanzitutto tutto il settore bancario europeo e quindi anche quello nazionale è veramente travolto dalla quantità di regole che viene emanato. Noi abbiamo fatto una rilevazione da cui emerge che sostanzialmente sono migliaia le normative che in un anno interessano e vanno a impattare direttamente sul settore bancario, tant'è che le banche hanno, passatemi il brutto termine, un ufficio compliance apposta, cioè un ufficio che si occupa di controllare che le banche rispettano pienamente tutte le diverse normative che vengono emanate e riguardano dai crediti alla finanza, ai sistemi di pagamento, c'è veramente un diluvio normativo, tant'è che come associazione bancaria chiediamo in questo momento alle autorità europee e nazionali una tregua nella emanazione di nuove norme. Molto spesso poi le norme che provengono a livello e che derivano a livello europeo sono norme che immaginano soprattutto una tipologia di banca che è una banca soprattutto che finanzia i mercati e che opera con i mercati e meno direttamente con le imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, che sono un po' le caratteristiche invece della nostra struttura produttiva. Quindi questo tende poi a penalizzare soprattutto quelle banche che vengono considerate un po' più tradizionali, ma che hanno assicurato in tutti questi anni poi un sostegno importante alla crescita del nostro paese. Grazie dottor Toriero. Allora noi adesso ci fermiamo, come sapete, al 45esimo minuto, e già Filippo Aureggi me lo ricorda dall'altra parte del vetro. Ci fermiamo per le informazioni sulla viabilità, ma torniamo tra poco con Due di Denari. Parliamo ancora con Claudia Segre di pagamenti elettronici, rispondiamo anche alle vostre molte domande. A tra pochissimo. Di denari. Giulia Lauricella, Marco Lombardi, io ve lo devo dire, a volte queste vostre scelte musicali mi lasciano perplesso. Io sono un signore di mezza età, voi non potete esagerare con le cose troppo moderne. Filippo Aureggi di là in regia ridacchia, ma c'è poco da ridere, caro mio. L'anagrafe è una cosa serissima, così come il bonifico istantaneo di cui stiamo parlando questa mattina. È con noi Claudia Segre. Allora, ci ha chiamato Francesco da Frosinone che vuole sapere se... Buongiorno Francesco. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, io la seguo da anni ormai, già da quando Mattino Presto faceva i suoi interventi. Grazie. Così importanti e così molto molto informativi. Sì, sì. La domanda è duplice, sì, in un certo senso. Il legislatore si è posto il problema che con il bonifico istantaneo l'utente potrebbe, cioè favorisce l'utente il bonifico istantaneo, però potrebbe in un certo senso sfavorirlo laddove ci sia l'errore nella compilazione del bonifico istantaneo, nel senso, prima... Sì, sì, se sbaglio... Non so se già è stata fatta questa domanda, sì. Io purtroppo... Ah, ok. No, allora no, mi dica la seconda parte, mi ha detto faccio due domande. E quindi si è posto... Esatto, la domanda era connessa ed era questa, cioè si è posto il problema che in realtà è vero che è un miglioramento della tecnologia, dell'hardware, dei pagamenti online... del software, di quello, sì, che vogliamo, però è pur vero che l'utente che ormai in banca non ci si va più, si rimane direttamente dietro lo sportello, dietro il proprio terminale, sì, a casa, l'utente può essere sfavorito perché nel momento in cui, e quindi che tutela c'è? Certo. Cioè, se io faccio un bonifico, no, di 10.000 euro, faccio l'esempio, sbaglio la compilazione, prima io nell'arco di 48 ore intervenivo, andavo in banca, telefonavo al numero verde della mia filiale. No, adesso no, non oggi è più possibile. Lo chiediamo, però facciamocelo spiegare nel dettaglio da Claudia Segre, che già era intervenuta. Non è annullabile questo bonifico, lei ci spiegava prima. Non è come il bonifico tradizionale. No, ecco, però ricordiamo, il bonifico tradizionale c'è, rimane e non si tocca. Oh, questo infatti risolve questo, una curiosità di molti questo ascoltatori. Questo è il punto fondamentale. C'è il bonifico istantaneo, è solo una alternativa laddove si ha la certezza del dato e l'esigenza straordinaria di far sì che i soldi arrivino immediatamente. La cosa importante da dire è che quando si fa tramite banca e non tramite una piattaforma di disintermediazione, quindi una piattaforma digitale, ma le banche sono vigilate, quindi non si potrà cancellarlo, ma si potrà quindi mettere in moto una procedura per un'eventuale cancellazione. Però ricordiamo, sempre quando viene fatto tramite banche che sono vigilate, ci sono delle procedure quindi monitorate. Oh, questa cosa delle procedure monitorate del rapporto con le banche ci porta anche un po' al ruolo di Global Thinking Foundation, di cui lei, dottoressa Segre, è la presidente e fondatrice, se sì, non mi hanno informato male. Allora, cosa fa la Global Thinking Foundation? Perché questa attività, ad esempio, di avvertire, di ammonire, di segnalare sul bonifico istantaneo, come stiamo facendo questa mattina, è una parte dell'attività che voi fate, proprio per educare, per informare gli utenti delle banche, tutti noi risparmiatori donatori correntisti. Sì, infatti, noi, a parte le attività di donazione che vengono fatte, abbiamo appena premiato 5 fuori classe della scuola che hanno vinto le Olimpiadi nel protocollo tra Ministero dell'Istruzione e la FEDUF. Ovviamente facciamo delle attività formative gratuite, certificate ISO, soprattutto rivolte alle donne e agli adulti. Proprio ieri sera, durante un corso rivolto alle donne, spiegavamo la profilazione MIFID, altro argomento caldo del momento, no? Quindi, sì, perché anche qui stiamo cambiando delle regole, esatto, importanti. Esatto, quindi da gennaio 2018, quindi come affrontare il profilo, come soffermarsi su ogni singolo quesito, come affrontarlo, che cosa vuol dire, perché ce lo chiedono. Quindi senz'altro questa attività che viene fatta dalla nostra fondazione, come da altre fondazioni private come FEDUF, il Museo del Risparmio, per gli adulti, oltre alle attività che vengono evidentemente fatte come da sempre per le scuole, si affiancano allo sforzo del Comitato Strategico Nazionale per l'Educazione Finanziaria per cercare di portare a livello di società civile un servizio di affiancamento, cosa che dovrebbero fare le banche, perché poi andare verso le famiglie, aiutarli proprio durante questi cambiamenti, siamo tutti dentro un grande acceleratore, ecco, sì. Darsi una mano e spiegare queste cose diventa molto come importante, come si vede anche dalle telefonate, dagli sms, dai whatsapp che ci stanno arrivando, perché poi a volte siamo un po' presi in contropiede da questi mutamenti, da queste innovazioni. Voi avrete anche delle iniziative in questi giorni a Milano, proprio il Salone dei Pagamenti. Sì, infatti ci sarà un incontro proprio Industry 4.0, quindi il digitale visto dal punto di vista dell'opportunità per le donne di adire a quella che è il digitale per aiutare l'inclusione sociale, la reintroduzione nel mondo del lavoro, conciliando anche evidentemente la vita familiare, con dei laboratori legati proprio all'imprenditoria femminile a livello di startup e quindi di coinvolgimento anche delle cosiddette competenze scientifiche a cui le ragazze dovrebbero poter arrivare rapidamente. Ma voi ritenete che ci sia, quindi, è una cosa che quasi mi sorprende un po', una differenza, un divario di genere, cioè che effettivamente le donne abbiano una sorta, possono avere maggiori difficoltà nel rapporto con il denaro, con la finanza, con gli investimenti. Ma noi tra ottobre e novembre abbiamo incontrato più di 300 donne e quello che abbiamo rilevato, al di là del fatto che certamente, come è stato sottolineato da molte ricerche, in generale si parla che il 20% delle donne in Italia non abbiano un conto corrente, e arriviamo in certe regioni, soprattutto al sud, a cifre che possono anche rasentare il doppio di questa cifra. Quindi il fatto che per retaggio culturale si lasci al proprio compagno, al marito, alla compagna di gestire il denaro, ci si toglie un po' dall'essere partecipi e complementari nelle scelte di investimento e di gestione del budget familiare. Quindi il digitale in questo senso aiuta le donne a riprendersi un po' questo ruolo e insieme alla propria famiglia a anche discutere. Quello che noi portiamo anche col progetto Family Me è il passaggio generazionale delle competenze tra i millennials e proprio gli anziani e le persone che si trovano davanti uno schermo con il banking online e non sono in grado di affrontare le miriadi di opzioni molto, certo, belle e divertenti, ma difficili. Sì, perché non siamo proprio, esatto, tutti degli hacker, esatto, o così digitali, o anche se usiamo lo smartphone ci piace moltissimo utilizzare queste nuove tecnologie, non è detto che poi siamo così formati e informati per usarle al meglio. Il caso del bonifico lampo, appunto, e le preoccupazioni che abbiamo visto emergere questa mattina dalle telefonate, dai messaggi che ci sono arrivati, sì, ma se poi sbaglio, ma poi che mi succede, ma posso ancora usare il vecchio bonifico? Sì, potete farlo, è una possibilità in più che proprio oggi, quest'oggi sta partendo. Un dettaglio sulla MIFID. Allora, giusto per dire, siccome poi quello che succede in banca, ma lei, dottoressa Segre, lo sa benissimo, è che ci vengono sottoposte un po' di domande, noi rispondiamo molto spesso distrattamente, e invece no, è importantissimo dare la propria posizione, la propria fisionomia di investitore, di risparmiatore in quella sede, perché altrimenti poi si rischia anche di vedersi così assegnare degli investimenti che non sono assolutamente adatti a quello che è il nostro profilo. Certamente, al di là del fatto che la MIFID 2 nasce come correttivo della MIFID per allargare lo spettro dell'applicazione e delle responsabilità legate a chi propone la profilazione, a chi propone i prodotti e la necessità per i consulenti di avere competenze e conoscenze necessarie ad affiancare le scelte, noi dobbiamo prenderci tutto il nostro tempo per affrontare il profilo MIFID, verificare ogni singola risposta, che venga apposta la X e non lasciare evidentemente delle caselle vuote senza un esito, che sia esso numerico, che sia una croce. Qualitativo, sì. E soprattutto non spaventarsi, perché non è detto che uno debba per forza conoscere tutti gli strumenti e barrare tutte le caselle, se no è meno bravo. Il problema è che se uno fa troppo, voglio dire, l'espertone rischia di vedersi rifilare dei prodotti molto complessi. Allora andate sul sito anche della Global Thinking Foundation, lo vogliamo ricordare? Sì, www.gltfoundation.com. gltfoundation.com. E allora, Due di Denari finisce qui, domani torna Deborah Rosciani, quindi ritorniamo Due di Denari. A domani.